Capitolo 14. Non era la prima volta che giocavano, e che sarebbe stata l'ultima non lo sapevano ancora. Eppure, appena si erano seduti ai lati opposti della scacchiera, tutte le conversazioni si erano interrotte e i compagni sulla terrazza li avevano accerchiati, assaporando il gusto di una sfida speciale. Tutti tranne uno, Leonid Volokh. Abbandonato su una poltrona, sorseggiava il tè con un gatto rosso che gli dormiva sulle ginocchia. Il marziano era atterrato su Capri ormai da 2 settimane, e prima che anche Lenin sbarcasse sull'isola, Bogdanov gli aveva raccontato cosa s'era perso nei pochi mesi del suo viaggio spaziale. Una disputa filosofica stava mettendo i bolscevichi gli uni contro gli altri. Lenin pensa che per capire il mondo bisogna scattargli una fotografia, quanto più precisa possibile. Per me invece la conoscenza è come il cinematografo. «E questo vi impedisce di battervi insieme contro lo zar?» aveva chiesto Leonid con l'aria di chi si sente preso in giro. A Kuokkala aveva visto Lenin e Bogdanov dividere la stessa casa, lavare i piatti insieme, scrivere articoli gomito a gomito. Ora, il solo fatto che giocassero a scacchi sembrava una tregua tra generali in guerra. La rapidità dei cambiamenti lo stordiva, la diffidenza dei compagni non lo aiutava a orientarsi. Il sospetto che il marziano fosse una spia dell'Ocrana aleggiava ancora sulle loro chiacchierate. Di certo Leonid avrebbe compreso meglio la polemica sull'empidemonismo se avesse saputo che la filosofia, per i due contendenti, era simile alla scacchiera lì di fronte, un campo da gioco dove tutti i conflitti diventavano un'unica partita. Consapevole di quella metafora, Bogdanov dispose il suo esercito. La sorte, sotto forma di moneta, gli aveva assegnato i pezzi bianchi. «Guarda come inizia!» sussurrò Bazarov nelle orecchie di qualcuno. Poteva scegliere tra 20 mosse di apertura, che amava suddividere in 3 categorie, stupide, eretiche e convenzionali. Immaginò che il pubblico si aspettasse da lui una giocata del secondo tipo, ma si sforzò di non considerare gli amici che lo fissavano e i mormorii d'attesa. Contro un avversario temibile, meglio andare sul sicuro. Di conseguenza, andare sul sicuro era anche un modo di manifestare timore, oppure di fingerlo. In ogni caso, Vladimir Ilic non era temibile neanche un po'. La serie storica delle loro sfide vedeva Bogdanov in netto vantaggio. Prese il pedone davanti al cavallo sul lato del re e lo avanzò di una casa. Tasso di eresia, 7/10. Mormorì, increscendo. La voce di Bazarov. «Visto?» Lenin sollevò le sopracciglia in modo plateale, come a dire «accidenti», ma l'ironia del gesto nascondeva nervosismo e le dita lo tradivano, impegnate a tormentare la barba. Scelse di rispondere ignorando l'avversario, come se la battaglia non fosse ancora cominciata e la prima mossa spettasse al nero. Apertura di re, il più classico inizio di partita. Non era già tutta lì la storia del loro scontro? Bogdanov si era inventato l'empiriomonismo, Lenin aveva preferito non dargli peso. Poi erano arrivati i dissigli politici, se boicottare il Parlamento o usarlo come tribuna. Poi la rapina di Tiflis aveva suscitato orrore tra le anime belle. 40 morti, una barbarie tartaro-mongola, si erano indignati i compagni di Berlino. Colpa di Bogdanov, un terrorista, un profeta dell'azione. Poi le discussioni sulla refurtiva, come usarla, come spartirla. Poi Gorky, che si mette a incensare Bogdanov, mentre Plekhanov gli strappa i galloni da marxista, gettando discredito sui bolscevichi. Alla fine Lenin aveva deciso di mettere tutti a tacere, dimostrandosi più ortodosso degli ortodossi. Si diceva che si fosse chiuso alla British Library, come Marx, quando scriveva Il Capitale, per trovare le argomentazioni contro gli eretici. La tregua filosofica era finita. Alfiere di re sulla seconda traversa. Risposta immediata, pedone di regina avanti di 2 passi a occupare il centro della tastiera. Leonid fece capolino dietro la spalla di Avdonin. Le sue labbra si mossero e l'amico soffocò una risata. Erano gli unici operai della combriccola e Bogdanov si compiaceva della loro complicità. In mezzo a un ambiente fraterno, ma per nulla proletario, i due si erano subito avvicinati, segno che la coscienza di classe è una pianta spontanea, per quanto bisognosa di cure. Fuori il cavallo di re, per preparare l'arrocco sul lato corto. Lenin fece una mossa speculare sull'ala destra del suo schieramento. Una poltrona di vimini grattò le mattonelle della terrazza e un'altra le rispose con ancor più rumore. «Tu, Natalia, mettiti lì!» disse la voce di Gorky. «E tu, invece, lì!» Bogdanov arroccò e alzò la testa dalla scacchiera. Lo scrittore stava di fianco a un tizio armato di fotocamera, di quelle a forma di scatola, con il manico in cima, abbastanza piccole da non aver bisogno di un treppiede. L'uomo non aveva una faccia nota, dovevano averlo chiamato apposta per immortalare il momento. Con le braccia fece segno agli spettatori al margine dell'inquadratura di stringersi ancora, ma nessuno gli dava retta, in attesa della prossima mossa. Gorky andò a sedersi sul parapetto nel posto che s'era riservato. Inclinò il cappello su un orecchio e si afferrò il mento, in una posa adatta al suo ruolo di artista. Dopo il primo scatto, balzò giù e ne domandò un secondo, questa volta in piedi e col pappagallo sulla spalla, quindi un terzo. Un'ombra nera calò impicchiata su una diagonale bianca e si avventò sul lato destro dell'armata di Bogdanov. Era un'alfiere in avanscoperta. Nulla di imprevisto, ma pur sempre aggressivo, come un lampo in una notte di tuoni. Il pappagallo pepito si appollaiò sullo schienale di una sedia e Gorky insistette perché il fotografo lo ritraesse, con la partita sullo sfondo. «Conosci il motto della Kodak?» aveva domandato Bogdanov a Leonid, nel mezzo di una passeggiata ai giardini di Augusto. «Tu schiaccia il pulsante, il resto lo facciamo noi. Un giorno renderanno automatico anche lo scatto e la macchina funzionerà da sola. Ecco perché Lenin ha un'idea passiva della conoscenza. L'azione del fotografo per lui non conta. Invece un film non si fa senza un regista che scelga le immagini, tagli la pellicola, ne prenda un pezzo e lo incolli a un altro. Dalla stessa bobina possono uscire 100 film diversi, dove la stessa scena acquista 100 diversi significati a seconda del punto in cui viene inserita. Per capirla devi considerare l'intera sequenza. Lenin invece prende un singolo fotogramma e lo confronta con la realtà. Se combaciano è vero, altrimenti è falso. Così lui concepisce una sola verità, fuori dal tempo, indipendente da noi. Io invece penso che ogni tempo ha le sue verità. Vuoi dire che fra 100 anni potrebbe essere falso che sono nato il 23 gennaio 1883? Aveva chiesto Leonid, perplesso. In alcuni paesi è già falso, aveva riso Bogdanov, strappando un rametto di rosmarino. Dove adottano il calendario gregoriano, tu sei nato il 4 febbraio. E poi, cosa intendi per nato? Le tue cellule sono nate nel 1882. Lascia perdere, lo aveva interrotto Volokh. Dimmi piuttosto di Copernico. Prima che arrivasse lui, il sole girava intorno alla Terra? Bogdanov aveva annusato il rosmarino. Sempre la stessa obiezione. Copernico, Galileo, gli spiriti. Esistevano gli spiriti quando l'uomo li venerava? Non ha senso farla oggi questa domanda. Come non ha senso chiedersi se Zeus scagliasse fulmini o se sono vere le leggi di natura che si scopriranno nei prossimi 1000 anni. Il mondo non è un bel panorama in attesa di una fotografia. Cambia come cambiamo noi, mentre lo conosciamo e resiste al nostro lavoro. Se vuoi misurare la temperatura di una goccia d'acqua, ci immergi un termometro, ma appena lo fai, il liquido si riscalda o si raffredda perché scambia calore con la punta dello strumento. Succede così per qualunque attrezzo, idea o parola che ti serve per indagare la realtà. Ma allora chi decide che Copernico ha ragione? Copernico partì da osservazioni note e usò un metodo accessibile a tutti. Molti non gli credettero, ma le sue affermazioni erano già vere, perché chiunque ci sarebbe potuto arrivare grazie alla scienza del tempo. Il suo punto di vista non venne imposto da un re o dai preti, altrimenti sarebbe stata una verità instabile, contraddittoria e ingiusta. Se vuoi che la verità sia stabile, allora il punto di vista deve essere quello del lavoro. Leonid era rimasto in ascolto. La risposta era troppo sibillina per non avere un seguito bello e pronto. «Marx dice che l'uomo conosce il mondo agendo su di esso», aveva ripreso Bogdanov. «Quindi la conoscenza viene dal lavoro ed è tanto più universale quanto più gli uomini collaborano e condividono il sapere. Come succede in fabbrica? Per questo Lenin, se vuole la verità, non può estrarre dal taschino la sua bella fotografia. Deve forgiarla insieme ai fabbri, scottarsi le dita in una fornace». L'idea di Lenin che si scotta lo riportò alla loro sfida. Immaginò di avanzare col cavallo di re. Giocò le partite che ne derivavano fino a una profondità di 5 turni. Poi si smarrì nel dedalo delle alternative. Rinunciò all'ipotesi e valutò i pedoni. Scelse quello di fronte all'arfiere di Regina per aprirle la strada. Avanzarlo di 2 passi invitava il nero a catturarlo, spostando dal centro della scacchiera uno dei pedoni che lo presidiavano. «Si chiama Gambetto di Donna», gli aveva spiegato suo padre in un'estate lontana, fatta di zanzare, polvere e bagni nel fiume. Lienin spinse in diagonale il suo pedone e sollevò quello bianco con due dita. «Vedi?» aveva continuato suo padre, con l'aria da maestro che si portava a casa del lavoro a scuola. «Finché un pezzo è sulla scacchiera, ha un valore, che dipende dalle sue capacità. La regina vale 10, il cavallo 5, il pedone 1, ma appena li togli, tornano a essere semplici legnetti intagliati. Una magia. Le caselle bianche e nere come un campo fatato». Qualche giorno dopo, il piccolo Sasha aveva mostrato al padre una grande scoperta. Aveva disposto sulla scacchiera pochi pezzi, come se fosse un finale di partita. I due re, la regina bianca, un pedone e un alfiere nero. La regina minacciava entrambi e poteva scegliere chi catturare. Il pedone era un passo dall'ultima traversa. «Tu mi hai detto che il pedone vale 1 e l'alfiere 5, quindi il bianco dovrebbe mangiare l'alfiere. Però se lo fa, il pedone nero arriva in fondo e si trasforma in regina». «Giusto, infatti la regina bianca deve catturare quel pedone». «Ma allora significa che il pedone vale più dell'alfiere», aveva protestato Sasha. «Significa che i pezzi non hanno sempre lo stesso valore, ma dipende da dove stanno rispetto agli altri». «Bravo!» si era complimentato il signor Malinowski, «proprio come accade nella vita». Quella sera, a tavola, gli aveva ricordato le tante leggende di ragazzini con grandi doti, costretti a lavorare come pastori o sguatteri, che grazie a un caso diventano re. Artù, Davide, Gordio. E viceversa, storie di individui stupidi e senza valore, trattati come re, per via del loro sangue. Bogdanov si divertiva a raccontare quello che era stato il suo primo incontro con il concetto di sociomorfismo. Dagli scacchi alla scienza, dal linguaggio alla realtà, tutto rispecchia i rapporti sociali. «Dimmi come lavora una società e ti dirò cosa conosce. Dimmi come lavora un individuo e ti dirò come pensa». Già, chissà come pensa un pedone. Un'idea per volta, senza fretta, fino alla rivoluzione. E il cavallo, con quei suoi salti sghembi, non può che essere pazzo. Regina bianca sulla sponda di sinistra, a cercare vendetta per il pedone caduto. «Empiro! Empiro! Empiro!» strillò il pappagallo Pepito sulla spalla di Gorky. Lienin alzò la testa di scatto. «Cosa dice?» domandò levandosi la bombetta. Cominciava a sudare. «Niente, niente!» si scusò lo scrittore, mentre rimproverava l'uccello con un dito. Bogdanov intanto ripassò le possibili mosse dell'avversario, battezzando le più pericolose. Quelle che lo avrebbero costretto a cambiare gioco, a immaginare la partita in maniera differente. Fin da bambino aveva imparato che la rivoluzione dei pensieri è la più complicata. Non era passato molto tempo dalla scoperta del sociomorfismo che il piccolo Sasha ne aveva fatta un'altra, sempre grazie agli umili pedoni. Sulla strada di casa aveva incontrato Volodia, che si aggirava con la scacchiera sotto braccio, in cerca di un amico con cui giocare. Si erano seduti sul muretto di fianco alla ferrovia e avevano sorteggiato i pezzi. A Volodia era toccato il bianco e, come apertura, aveva preso due pedoni e li aveva spinti avanti di una casa. «Non puoi!» era insorto Sasha, ma l'amico era sicuro del contrario. Se alla prima mossa si poteva spostare un pedone di due caselle, allora si poteva anche spostarne due di una sola. «Due per uno è lo stesso di uno per due», aveva ripetuto Volodia. Poi, come argomento finale, aveva dichiarato che la scacchiera era la sua e quindi si giocava come diceva lui. Sasha aveva ceduto, pensando che il giorno dopo avrebbe portato la sua scacchiera per imporre le sue regole. Tornato a casa, si era ripromesso addirittura di inventare un nuovo gioco, ma l'impresa si era rivelata più difficile del previsto. Per quanti sforzi facesse, gli venivano in mente solo due varianti degli scacchi e niente di davvero diverso. Da adulto Bogdanov aveva raccontato l'aneddoto in molte occasioni, nelle scuole serali dei circoli operai, aggiungendo la morale della favola. «Se il proprietario della scacchiera vuole stabilire nuove regole, spiegava, deve essere in grado di pensarle, di organizzare un gioco nuovo. Allo stesso modo, se gli operai conquistano le fabbriche, ma non hanno una nuova cultura per organizzarle, finiranno per dipendere dagli ingegneri e dai tecnici che già lavoravano per i vecchi proprietari, oppure ne imiteranno l'opera, con risultati peggiori. E così, la pretesa rivoluzione non produrrà un reale cambiamento, se non in peggio». Lienin fece una mossa timida, o d'attesa, avanzò la regina di un passo, liberando lo spazio tra re e torre. Bogdanov ipotizzò che avrebbe arroccato al turno seguente. Senza pensarci troppo, vendicò il pedone sacrificato nel gambetto, eliminando il suo carnefice con un colpo di regina. Il nero arroccò, proteggendo il re dietro un baluardo di tre pedoni, più regina e torre. Un comodo rifugio, o una prigione, come quando un castello è divorato dal fuoco. Davanti a quel bastione Bogdanov presagì un assedio. Era ancora distante, confuso nella nebbia di troppe mosse, ma bruciava come un incendio sulla destra di Lenin. Una volta avvistate, era difficile ignorare le fiamme. Simili a sirene cantavano un irresistibile invito. Ma era presto, presto, neanche un terzo di una partita breve. Quel fuoco era il futuro, e se voleva sperare di appiccarlo, Bogdanov doveva limitarsi ad accendere un cerino, senza farsi notare, nasconderlo nella mano e camminare piano verso la pira, sorvegliando gli altri angoli del campo di battaglia, dove il nemico poteva aggredire con piani imprevisti. «Se pensi di vincere, hai già perso», gli aveva detto suo padre. Mandò all'attacco il cavallo che non aveva ancora toccato, sul lato della regina. Seguirono tre turni d'attesa, per studiarsi a vicenda, senza esporsi troppo. Ma l'incendio si imponeva con i suoi bagliori. Chissà se su una Kun avevano un gioco simile agli scacchi. Leonide nei suoi racconti non gli aveva descritto i passatempi extraterrestri. Gli alieni socialisti dovevano avere soltanto giochi di squadra, senza re e regine a dominare le partite. Però anche sul loro pianeta c'erano state società autoritarie, divise in classi. Giochi e forme d'arte di quei tempi lontani potevano essere sopravvissuti nel presente, per inerzia o per scelta consapevole. Leonide era rimasto colpito dalla poesia anacuniana. Si basava sulla metrica e sulle rime, che lui considerava un'eredità feudale, una limitazione della libertà creativa. I suoi ospiti, invece, sostenevano che il ritmo delle sillabe imitava quello della vita e che la rima univa versi differenti, come l'amore e il lavoro uniscono gli individui. Era il solito problema di cosa salvare e cosa rifiutare del vecchio mondo. Lenin voleva tenersi stretta la scienza, che tanto per lui era un insieme di verità oggettive e neutrali. «Invece, secondo te, lo aveva interrogato Leonid, per essere certo di aver capito bene, è oggettivo che la Terra gira intorno al Sole, perché ce lo confermano tutte le nostre conoscenze. Allo stesso modo, per gli antichi greci era oggettivo che Zeus scagliasse i fulmini, mentre è soggettivo che il rosmarino ha un buon profumo, perché ognuno monta quell'esperienza a modo suo e quindi sentiamo odori diversi». «Esatto», pensò Bogdanov, spostando la torre dell'arrocco sulla terza casella da sinistra. Il lato della scacchiera che voleva incenerire. Il gioco consisteva in quello: vedere lo scacco matto prima dell'avversario, soggettivamente, e poi manovrare per renderlo oggettivo. Lenin rispose. Il cavallo bianco saltò in mezzo tra i due schieramenti. Bogdanov si rese conto di aver mosso troppo in fretta, senza considerare ciò che l'altro andava costruendo. Magari anche lui aveva un incendio negli occhi. Cercò indizi nei volti degli spettatori. Chissà se Bazarov aveva intravisto le stesse vampe. A dire il vero, sembrava interessato soltanto alla brace del suo sigaro, che pendeva pericolosa sopra la testa di Lunacharsky. Fissò Advonin, che forse aveva già intuito la strategia di Lenin. Interrogò il pappagallo Pepito, con flussi di magnetismo animale. Alla ritirata del prode al fiere nero rispose riportando la regina contro la sponda, dritta, davanti al pedone che avrebbe dovuto abbattere per entrare nel rifugio del re. Prima però bisognava eliminare il cavallo nero, che proteggeva il varco, e mettere un cavallo bianco a presidiare l'unica via di fuga. Nei due turni successivi Bogdanov portò avanti il suo piano, come uno scultore che ha in mente la statua e la cava dalla roccia, aggiustando i colpi in base alle risposte della materia o alle sue durezze impreviste, alle venature. Offrì un cavallo in sacrificio, come se potesse farne a meno. In realtà era un pezzo indispensabile per l'assedio finale. «Sulla scacchiera le bugie durano meno che in casa», gli aveva detto suo padre. Lenin rifiutò l'offerta. Per catturare quel pezzo avrebbe dovuto indietreggiare col suo cavallo. Invece, a quanto pareva, gli interessava lanciarlo al galoppo. Preferì muovere la regina e incollarla al cavallo appena graziato. Bogdanov non lo spostò, ma travolse con la torre l'altro cavallo nemico. Il fratello balzò sull'alfiere in campo nero, esponendosi alla ritorsione di un pedone. Bogdanov non accettò lo scambio. La torre bianca, che non s'era ancora messa in marcia, andò a coprire le spalle della sorella. Ora Lenin poteva fare soltanto una mossa per evitare il rogo, ma almeno un paio sembravano più appetibili. Giustiziare il cavallo bianco, per due volte esposto al sacrificio, o proseguire la carica col cavallo nero, che poteva uccidere un secondo alfiere, lasciato lì apposta per attirarlo in trappola con promesse di gloria. Soltanto una mossa, con l'alfiere sul nero, immobile da inizio partita, ancora addormentato. Chissà come pensa un alfiere, in maniera obliqua, ma manichea, sempre nero o sempre bianco. Una sola mossa. Se ne sarebbe accorto? Se sì, allora l'intera partita si rovesciava. Il cavallo nero, da eroe inutile, si trasformava in spina nel fianco. Se sì, allora aveva sbagliato a giocare come uno scultore, cercando di tradurre la forma che aveva in testa in una combinazione sulla scacchiera. Avrebbe fatto meglio a seguire l'esempio dei musicisti, che sono maestri dei loro strumenti proprio quando dimenticano le forme da riprodurre, la posizione delle dita, la postura del corpo ed eseguono tutto come un respiro. Forse un maestro di scacchi muoveva i pezzi come si suona un violoncello, immaginando e agendo in un unico gesto, non uno prima e l'altro dopo, mente e poi corpo, piani e poi mondo. Un empirico monista come lui avrebbe dovuto saperlo. La mente è corpo, l'azione è già pensiero, lo scultore lavora insieme alla pietra, la forma nasce insieme al contenuto. L'alfiere sul nero, l'unica mossa. Bazarov si chinò a spengere il sigaro sul pavimento. Anche le piastrelle della terrazza formavano una scacchiera. Natalia si era messa a leggere di fianco a Maria Andreeva, che ricamava uno scialle. Leonid e Advonin non erano più lì. Gorky accarezzava Pepito, ancora convinto che quel soggiorno avrebbe rimesso insieme i cocci della fazione bolscevica. Lunacharsky, mezzo sdraiato sulla poltrona, scattò col busto in avanti mentre la mano di Lenin sollevava il suo eroico cavallo e lo mandava a giustiziare il secondo alfiere. Mossa sbagliata. «Aiuta il tuo avversario a giocare male», gli aveva detto suo padre. La regina bianca partì alla carica e abbatté il pedone di fronte a sé. Il varco era aperto. L'unica via d'uscita, presidiata dal cavallo, trattato finora come un pezzo sacrificabile. Le torri si davano manforte, nel caso quello venisse immolato. Eppure, nessun pezzo bianco minacciava il re nero e di certo Lenin non aveva compreso la portata del disastro. Non aveva visto le fiamme, che non gli davano più scampo. L'incendio, ormai oggettivo. Fu quindi con immensa soddisfazione che Bogdanov, dopo una partita di soli 18 turni, annunciò che la sfida era terminata. Scacco matto alla prossima mossa.